nazionale di mobilitazione contro le decisioni di Monti, che ha annunciato che vuole privatizzare anche l'acqua, non sappiamo come e in che modo, quindi eludendo completamente il referendum, cosa che accade per la prima volta in maniera così plateale. Non è che altri governi non abbiano eliminato, voglio dire, la sostanza dei referendum. Quest'oggi a Roma si sarà a partire dalle 16 fino a tarda sera sotto Montecitorio, e in tutta Italia io almeno ho recuperato una quindicina di iniziative in giro per l'Italia, a partire, che posso dire, da Palermo per arrivare a Torino, passando per Firenze e Bologna, sotto le prefetture, che ovviamente è l'organo governativo su questo. La battaglia è essenziale, perché se addirittura un referendum di pochi mesi fa, quello di fine giugno, insomma, viene preso a calci in culo nel momento in cui la crisi si accentua dopo 4 anni, in un paese che sta in recessione e che ci tocca pagare tutto, ovviamente, che il documento CGIL CISL UIL, cui vanno al confronto in questo momento col governo Monti, è di totale acquiescenza, soprattutto di totale acquiescenza non solo nei confronti del mercato del lavoro, per cui non citano mai la parolina magica dell'articolo 18, però dentro c'è tutta la possibilità del mantenimento di tutte le flessibilità dei lavori atipici e quant'altro, ovviamente con tutte le toppe da metterci per quelli che perdono il lavoro, con 4 soldi di miseria, ovviamente, eccetera, ma soprattutto sulle liberalizzazioni c'è un capitolo a sé stante in cui viene plaudito alle liberalizzazioni, ovviamente non citando mai l'acqua, e questa è un altro delle ipocrisie e dei sotterfugi, citando magari a proposito e sproposito le poste e le ferrovie, ma soprattutto lì a cappello c'è questa grande boria, questa grande sbornia per arrivare direttamente e velocemente alle privatizzazioni, salvo metterci una toppa di un ente bilaterale che possa poi controllare il processo, ma quello lo sai. Conta nulla una volta che hai preso la decisione, i padronacci che acquistano le quote. E non so se hai avuto dato la possibilità di dare una scorsa stamani al Sole 24 Ore, c'è una lunga pagina che riguarda Alemanno, perché Alemanno viene intervistato in virtù che zitto zitto scioglie l'opzione della holding del Comune di Roma, che è una grossissima holding che ha una trentina di società, quelle più grosse si chiamano Acea, Atac, Ama, eccetera eccetera, vuole cedere il 40% della holding ai privati. Tu capisci bene che a che fine faremo, soprattutto la fine già è stata decisa, perché daremo in mano a Caltagirone in primis, ad altri, la gestione ovviamente dei servizi pubblici essenziali, e questo la dice lunga di come stanno ragionando ovviamente questa triade che si è innestata nella grande ammucchiata per sostenere Monti. Quindi ricordo solamente l'appuntamento di oggi, almeno per Roma, è quello di Piazza Montecitorio a partire dalle 16, e poi chi verrà vedrà. E va bene, grazie Vincenzo allora per aver completato questo quadro di una privatizzazione strisciante, di cui, come tu giustamente sottolineavi, c'è da dire il fatto che peraltro sta avvenendo in maniera molto subdola, perché in questi giorni appunto ne stiamo sentendo, no? Sopra di servizi riguardo la liberalizzazione, soprattutto però riferita ad alcune categorie, le cosiddette categorie corporative. Poi però, insomma, dell'attacco che c'è ai servizi, ai beni comuni, ai servizi pubblici, quelli insomma che favoriscono la collettività, insomma se ne parla molto poco, ma in realtà sotto traccia stanno avvenendo anche con la complicità dei sindacati, praticamente. Sì, e questa è la ciccia, hai ragione di dirlo, ovviamente riferito alle attuali proteste, ovviamente tassisti, farmacisti, aggiungicene qualcun altro, insomma, eccetera. Ma quella non è la ciccia, voglio dire, quello c'è motivi ovviamente antichi, eccetera. La ciccia sta nelle grandi multiutilities che gestiscono insieme energia, rifiuti, acqua, trasporti pubblici, eccetera, eccetera. Lì sta la ciccia, tant'è che loro individuano a dire: guardate, smettetela, loro il documento di CGIL CISL UIL, ma di converso ovviamente c'è stata una novità ovviamente alla vigilia di Natale, di cui magari non ce ne si è troppo accorti, che c'è stato un accordo fondamentale tra l'EDF francese, che controlla tutta l'energia in Francia e anche in Europa, e la vecchia Edison, che viene incorporata definitivamente dalla società francese, quindi scioglie l'ipocrisia di avere partecipazioni. Quindi l'EDF controllerà il gas di gran parte del nord d'Italia. In questo accordo viene ceduta la parte elettrica ad una delle vecchie società a sua volta ceduta all'Enel, che si chiama Edipower. Dentro Edipower confluiranno, senti, A2A Milano Brescia, Iren Torino Genova, Acea e altre società, quelle del nord, Padova Trieste, per calamitare infine anche Era, che controlla ovviamente l'Emilia Romagna. Questa diventa una mega ultra società che sarà il secondo gestore nazionale europeo dell'elettricità in Italia e Europa. E ovviamente dentro queste società non c'è solamente elettricità, c'è appunto acqua, rifiuti, trasporto pubblico locale. Se arriverà, come viene sollecitato addirittura dal documento CGIL CISL UIL, la fine dei piccoli per diventare grandi società per competere sul mercato, c'è sempre questa parolina d'ordine ovviamente dentro, tu capirai che faranno carte false per legittimare questa possibilità, ma carte false non se ne fanno nemmeno, perché il governo Monti attraverso Passera è completamente d'accordo su questa mega holding, come è completamente d'accordo il sindacato. Rimetteranno ovviamente i loro guai i lavoratori che dentro gli accorpamenti finiscono per perdere quantomeno il 30% d'occupazione. La parola spetta e rimane solo alle reti, alle associazioni, ai movimenti, insomma, per l'acqua, che si sono chiaramente sviluppati sul territorio romano e anche sul territorio nazionale per cercare di porre un argine alla privatizzazione di questo importante servizio, quindi dei servizi idrici. Grazie Vincenzo, l'appuntamento ciao, quindi per tutti. Questo pomeriggio. Ciao, grazie. Ciao.